Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 9 ottobre 1986. Evelyn aveva avuto una gran fretta di raggiungere la casa di riposo quel giorno. Per tutto il tragitto non aveva fatto altro che incitare Ed a premere più forte sull'acceleratore. Si soffermò come sempre il più brevemente possibile in camera della suocera e le offrì un panino al miele, ma ancora una volta la suocera rifiutò dicendo: «Se lo mangiassi starei male come un cane. Proprio non riesco a capire, cara, come tu riesca a mangiarti tutte quelle cose appiccicose». Evelyn si scusò e corse in fondo al corridoio nel salottino delle visite. La signora Threadgood, che quel giorno indossava il suo vestito verde a fiori, la salutò con un entusiastico «Buon anno!». Evelyn si sedette, piuttosto preoccupata. «Mancano 3 mesi a Capodanno, non c'è stato ancora Natale!». La signora Threadgood rise «Lo so, ma volevo accelerare un po' i tempi, divertirmi, insomma. Tutti questi vecchi sono così cupi, sembrano degli spettri!». Evelyn le consegnò i panini. «Oh, cara, sarebbero questi i panini al miele?». «Sì, si ricorda, gliene ho parlato l'altra volta». «Hanno un aspetto delizioso». La signora Threadgood ne osservò uno. «Assomigliano alle nostre ciambelle alla crema». «Grazie, cara. Ha mai assaggiato una delle nostre ciambelle alla crema? Sono leggere come piume». «Cleo», dicevo sempre a mio marito, «se passi dal fornaio, porta una dozzina di ciambelle alla crema per me e Albert. Sei alla glassa e sei allo zucchero». «Mi piacciono anche le treccine, ma non ricordo più come si chiamano». Evelyn non ne poteva più di aspettare. «Signora Threadgood, mi racconti come andò il processo?» «Parla del processo di Big George?» «Sì, quello sì che fu un avvenimento. Eravamo tutti preoccupati da morire. Pensavamo che non sarebbero più tornati a casa, ma alla fine vennero giudicati non colpevoli. Cleo raccontò che avevano provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, dove si trovavano nei momenti in cui aveva avuto luogo l'omicidio, quindi non potevano essere stati loro a compierlo». Secondo lui, Iggy aveva affrontato quel processo solo per proteggere qualcun altro. Evelyn riflette per qualche istante. Chi altri avrebbe voluto ucciderlo? Eppure qualcuno l'ha fatto. Qualcuno sostiene che sia stato Smokey Lonsam. Altri fanno il nome di Eva Bates e dei suoi amici giù al fiume. Tutta gente piuttosto sbrigativa. Senza contare i soci del club dei cetrioli sott'aceto. Insomma, è difficile a dirsi. E poi ovviamente non bisogna dimenticare Ruth. Evelyn si meravigliò. Ruth? Dov'era la notte dell'omicidio? Avrà avuto un alibi? La signora Threadgood scosse la testa. È proprio questo il bello, cara. Nessuno sa dove fosse. Iggy dice che andò con lei a casa a trovare la mamma Threadgood, che era stata poco bene, e io le credo. Ma certi nutrono dubbi in proposito. So soltanto che Iggy sarebbe volentieri finita sottoterra piuttosto che vedere Ruth accusata di omicidio. L'assassino non fu mai scoperto. No, mai. Ma se non furono Iggy e Big George, chi uccise Bennett, secondo lei? Ecco una domanda da $1.000. Non le piacerebbe saperlo? Certo che sì, a chi non piacerebbe? È uno dei grandi misteri del mondo, ma rimarrà un segreto tra l'assassino e Frank Bennett. E lo sa anche lei, i morti non parlano. Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 9 dicembre 1956. Chiude l'ufficio postale. Eh sì, dopo che il caffè e il salone di bellezza hanno chiuso, avrei dovuto immaginare che sarebbe toccato a me. Avrete ricevuto il mio messaggio con la posta. L'ufficio postale chiuderà e la corrispondenza verrà smistata a Gate City. Sarà un giorno molto triste per me, ma continuerò a pubblicare il bollettino, quindi telefonatemi o portatemi le notizie direttamente a casa. Oppure comunicatele alla mia dolce metà se lo incontrate in giro. Da quando Essie Rue ha trovato quel lavoro di organista al Dreamland Roller Ring a Birmingham, lei e suo marito parlano di trasferirsi laggiù. Io spero che non lo facciano. Ora non ci sono più né Julian né Opal. Io, Ninni Threadgood e Biddy Louise Otis saremo le ultime rimaste del gruppo. Mi rincresce dovervi informare che questa settimana un ladro è penetrato in casa di Vesta Adcock e ha rubato dal suo armadietto cinese tutte le figurine degli uccelli e la moneta che lei teneva in un cassetto. E non è finita. Il giorno di Natale ero al cimitero a mettere fiori sulla tomba di mia madre quando qualcuno mi ha rubato la borsetta dalla macchina. I tempi sono cambiati. Ci vuole un bel pelo sullo stomaco per rubare davanti a un cimitero. Per finire, esiste qualcosa di più triste di un giocattolo posato su una tomba? Dot Wims. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 12 ottobre 1986. Evelyn si alzò presto, andò in cucina e cominciò a preparare una sorpresa alla signora Threadgood. Scaldò il piatto subito prima di partire per la casa di riposo, lo avvolse in un foglio di alluminio e lo mise in una borsa termica perché restasse ottimo e fragrante. Ancora una volta incitò Ed ad attraversare la città veloce come il vento. L'anziana signora la stava aspettando ed Evelyn le domandò di chiudere gli occhi mentre scartava il piatto e apriva il coperchio della lattina di tè freddo alla menta. Ora può guardare. Quando la signora Threadgood vide quello che c'era sul piatto, batté le mani eccitata come una bambina la mattina di Natale. Aveva davanti pomodori verdi fritti e gran turco alla panna, 6 fette di pancetta affumicata, qualche cucchiaiata di fagioli di lima e 4 enormi e leggerissimi biscotti al latticello. Evelyn si commosse nel vedere quanto fosse felice la sua amica. Disse alla signora Threadgood di mangiare finché era caldo e, dopo essersi scusata, andò in fondo al corridoio a cercare Jeanine. Le diede $100 in una busta e 25 di mancia e la pregò di assicurarsi che la signora Threadgood, durante la sua assenza, avesse tutto quello che voleva mangiare e si togliesse ogni capriccio. «Non posso accettare la mancia», disse Jeanine. «La Threadgood è una delle mie preferite. Non si preoccupi, signora Couch. Mi occuperò io di lei». Quando Evelyn tornò nel salottino, il piatto era vuoto. «Oh, Evelyn, non so che cosa ho fatto per meritare tutti questi vizi. È stato il pasto migliore che io abbia fatto dal giorno della chiusura del caffè». «Lei merita di essere viziata, signora Threadgood». «Questo non lo so e non capisco perché lei sia tanto cara con me». «Ma gliene sono grata. Ringrazio il Signore ogni sera e gli chiedo di vegliare su di lei». «Lo so». Evelyn le si sedette accanto, le prese la mano e alla fine le annunciò che sarebbe stata via per qualche tempo, ma che sarebbe tornata ben presto con una sorpresa per lei. «Che bellezza, una sorpresa! Sarà più grande di una scatola di biscotti?» «Non posso dirglielo, signora Threadgood, altrimenti che sorpresa sarebbe?» «Ha ragione, si spicci a tornare però, perché passerò tutto il tempo ad aspettarla. È una conchiglia? Va in Florida?» «Opal e Julian mi hanno mandato una conchiglia dalla Florida». Evelyn scosse la testa. «No, non è una conchiglia e non mi faccia più domande, le toccherà davvero aspettare». Le diede il foglio di carta e disse: «Ecco il numero di telefono e l'indirizzo dove mi potrà trovare. Se avrà bisogno di me, potrà rintracciarmi qui». La signora Threadgood disse che le avrebbe tenuto la mano finché non fosse arrivato per lei il momento di andarsene. L'accompagnò fino alla porta dove Ed stava aspettando. «Come sta oggi, signora Threadgood?» domandò lui. «Benissimo, sua moglie mi ha rimpinzata di pomodori verdi fritti e fagioli di lima». Evelyn la stava abbracciando quando una donna magra, come uno scricciolo, in camicia da notte e pelliccia di volpe, si avvicinò al gruppo e, gridando, annunciò: «Avete finito con i saluti? Mio marito e io abbiamo appena comprato questo posto e entro le 6 dovrete tutti sgombrare». E continuò così lungo tutto il corridoio, terrorizzando le altre ospiti di Rose Terrace. Evelyn guardò la signora Threadgood. «Vesta Adcock?» La signora Threadgood annuì: «Proprio lei? Che cosa l'avevo detto? La poveretta non ha una sola rotella a posto». Evelyn rise e la salutò con la mano. Anche l'altra agitò la mano: «Spicciatevi a tornare, mi raccomando, e mandatemi una cartolina». United Airlines, volo 763, da Birmingham alla California, 14 ottobre 1986. Un giorno, 7 anni prima, Evelyn Couch stava facendo acquisti al centro commerciale, quando, passando davanti a un negozio di radio e televisori, vide su uno degli schermi in vetrina una grassona dall'aspetto familiare. Cercò di capire chi fosse e quale fosse il programma. La donna sembrava fissarla con insistenza, poi capì: «Mio Dio, quella sono io!» Era se stessa che aveva visto su quello schermo. Ne fu scioccata. Per la prima volta aveva preso coscienza della propria mole. Era accaduto a poco col passare degli anni, ma adesso questo era il risultato. Sembrava una copia esatta di sua madre. Dopodiché aveva provato tutte le diete di questo mondo, ma non era riuscita a seguirne alcuna. Aveva anche fallito per ben 2 volte la dieta dell'ultima possibilità. Una volta si era iscritta a un centro salutista, ma quando aveva finito di infilarsi la calzamaglia, era già così stanca che aveva pensato bene di tornare a casa a sdraiarsi. Su Cosmopolitan aveva letto che adesso i chirurghi plastici erano in grado di risucchiare il grasso da sotto la pelle e avrebbe fatto anche quel tentativo se non avesse avuto tanta paura dei medici e degli ospedali. Così aveva continuato a servirsi nei negozi per taglie forti e aveva sempre provato una certa soddisfazione quando vi aveva incontrato donne più grasse di lei. Di solito, per festeggiare l'incontro, andava a sedersi a un tavolo della pasticceria all'angolo. Il cibo era diventato l'unica cosa per la quale valesse la pena di vivere, e torte e caramelle erano ormai le uniche fonti di dolcezza della sua travagliata esistenza. Ma ora, dopo mesi e mesi di incontri settimanali con la signora Threadgood, qualcosa era cambiato. Ninny Threadgood le aveva restituito la giovinezza, le aveva fatto notare che aveva ancora metà della sua vita davanti a sé. La sua amica era convinta che fosse in grado di vendere i cosmetici di Mary Kay. Nessuno prima di allora l'aveva mai creduta capace di tanto o aveva avuto fiducia in lei, e lei stessa meno di chiunque altro. Più la signora Threadgood ne parlava, più Evelyn ci pensava, meno Towanda le imperversava nella mente, e lei cominciò a vedersi magra e felice al volante di una Cadillac rosa. Poi, quella domenica, nella chiesa battista di Martin Luther King, era avvenuto il miracolo. Per la prima volta, dopo mesi, aveva smesso di pensare a uccidere se stessa o altri e si era resa conto di voler vivere. Così, prima che quel nuovo entusiasmo si spegnesse, aveva raccolto tutto il suo coraggio e con l'aiuto di due compresse da 5 milligrammi di Valium, si era fatta visitare da un medico. Il medico, un giovane fascinoso, l'aveva sottoposta a una visita di cui lei non ricordava molto, se non che era stata trovata in perfetta salute. Il livello di estrogeni però era basso, proprio come aveva sospettato la signora Threadgood. Quel pomeriggio stesso Evelyn aveva assunto la sua prima dose di Premarin 625 mg e si era subito sentita meglio. Un mese più tardi aveva avuto un clamoroso orgasmo che aveva spaventato a morte il povero Ed. 10 giorni dopo Ed si era iscritto a un corso di ginnastica. E dopo 2 settimane dal giorno in cui aveva ricevuto il campionario di Mary Kay, Evelyn aveva studiato da cima a fondo il suo manuale della perfetta venditrice, aveva firmato il contratto e teneva corsi sulla cura del viso. Molto presto, nel corso di una cerimonia speciale, il direttore di zona della Mary Kay le aveva appuntato al petto la medaglia della perfetta venditrice che lei prese a sfoggiare con orgoglio. Un giorno si dimenticò persino di pranzare. Stava accadendo tutto così in fretta, ma non abbastanza per Evelyn, così prelevò 5.000 dollari dai suoi risparmi, preparò le valigie e quel giorno era seduta su un aereo diretto in California, con sulle ginocchia il pieghevole che aveva ricevuto a casa, eccitata come suo primo giorno di scuola. Una giornata tipo alle terme. Ore 7, un'ora di camminata alternando percorso in città e percorso nella natura. Ore 8, caffè e un bicchiere di succo di pomodoro senza sale. 8:30, esercizi di risveglio del corpo eseguiti a tempo di I'm So Excited delle Pointer Sisters. Alle ore 9, esercizi di stretching e agilità con l'uso di palla, bacchetta, cerchi e altri attrezzi. Alle 11, giochi in acqua con l'uso di palla e cintura galleggiante. Alle 12, pranzo 250 calorie. Alle 13, massaggi e cure del viso con offerta speciale di prodotti per la bellezza dei piedi e delle mani. Alle 18 cena, 275 calorie. Alle 19:30 corso di pittura. Jamie Higdon insegna la copia dal vero con l'uso unicamente di frutta artificiale. Venerdì, Alexandra Badge insegna a fabbricare cestini con la pasta di pane non commestibile. Whistle Stop, Alabama, 7 novembre 1967. Hank Roberts aveva appena compiuto i 27 anni ed era proprietario di una ditta di costruzioni. Quella mattina lui e il suo amico Travis, quello con i capelli lunghi, avevano appena iniziato un nuovo lavoro. L'enorme bulldozer giallo, rombando e cigolando, stava spianando il terreno libero lungo la recinzione della vecchia casa Threadgood in First Street, dove la chiesa battista avrebbe fatto costruire un edificio annesso in mattoni rossi. Travis, che quella mattina aveva già fumato 2 spinelli, gironzolava tirando calci per aria e borbottando tra sé: «Ehi, guarda un po', è pieno di schifezze qua sotto». Hank stava mangiando un panino quando Travis lo chiamò tutto agitato: «Presto, vieni a vedere!» Hank andò a guardare dove il bulldozer aveva appena rivoltato la terra. Era pieno di teste di pesce ormai ridotte a semplici file di dentini aguzzi e di crani di maiali e polli mangiati chissà quanto tempo prima da chissà chi. Hank era un ragazzo di campagna e quindi era abituato a simili spettacoli e non ci trovò nulla di strano. «È per questo che mi ha chiamato?» Tornò a sedersi e attaccò il secondo panino. Travis invece era rimasto colpito dalla sua scoperta e continuò a cercare in giro. Ogni tanto inciampava in qualche osso o teschio animale. «Santo cielo, ne hanno sepolti a centinaia! Che cosa ci faranno qui?» «Che cosa vuoi che ne sappia?» «Non lo trovi strano, un po' macabro?» Hank, che cominciava a provare un certo disgusto, perse la pazienza. Sono solo delle teste di maiale, perché ti agiti tanto? Travis sferrò un calcio a qualcosa e si fermò come paralizzato. Dopo un minuto, con voce strozzata, disse: Ehi, Hank! Che cosa c'è adesso? Hai mai visto un maiale con un occhio di vetro? Hank si alzò e andò a guardare. Diamine, commentò, che io sia fulminato. Caffè di Whistle Stop, Whistle Stop, Alabama, 13 dicembre 1930. Ruth e Iggy erano uscite dal caffè per andare a casa a trovare mamma Threadgood, che non si sentiva bene. Sipsy era venuta a curare il bambino, come faceva spesso. Quella sera aveva portato con sé Artis, il gemello undicenne con le gengive blu, per avere compagnia al ritorno. Il ragazzino era un demonio, ma lei proprio per questo lo adorava. Erano le 8 e Artis si era appisolato. Sipsy stava ascoltando la radio finendo di mangiare il suo piatto di pane fritto e melassa. A un certo punto all'esterno si udirono scricchiolare le foglie. Era un camioncino nero con la targa della Georgia che si stava avvicinando al retro del caffè con le luci spente. 2 minuti più tardi, Frank Bennett, completamente sbronzo, aprì con un calcio la porta ed entrò in cucina e nella stanza dove Sipsy era seduta. Le puntò addosso una pistola e si avvicinò alla culla. Sipsy si alzò e cercò di prendere il bambino, ma lui l'afferrò per il vestito e la spinse dall'altra parte della stanza. Lei gli si avventò addosso. Lascia in pace questo bambino! È il figlio della signorina Ruth! Levati dai piedi, negra! La colpì con il calcio della pistola. Sipsy crollò priva di sensi sul pavimento e un rivolo di sangue cominciò a colarle dall'orecchio. Artis si svegliò. Nonna! Strillò e le corse accanto mentre Frank Bennett prendeva il bambino e si avviava verso la porta. C'era luna nuova quella sera. Nel buio pesto, Frank raggiunse il suo camion. Aprì la portiera e depose il bambino che non aveva emesso un suono sul sedile anteriore. Stava salendo anche lui quando all'improvviso udì un rumore dietro di sé, come se qualcosa di pesante avesse colpito un ceppo ricoperto con un piumino da letto. Il rumore che aveva sentito era stato provocato da una padella da 2,5 kg calata con vigore sulla sua folta capigliatura. Il suo cranio si era spaccato in due. Era morto prima di toccare terra e Sipsy stava già tornando in casa con il bambino. Nessuno porterà via questo piccino, non finché io sono viva. Frank Bennett non aveva previsto che lei si sarebbe ripresa in tempo, non aveva neppure immaginato che quella negra dall'aspetto fragile maneggiasse padelle da 2,5 kg, due per volta, dall'età di 11 anni. Insomma, si era sbagliato di grosso sul suo conto. Quando Sipsy passò accanto ad Artis, mezzo morto di paura, aveva gli occhi spiritati. «Corri a chiamare Big George!» gli ordinò. «Ho ucciso un bianco, bisogna fare qualcosa!» Artis si avvicinò in punta di piedi alla sagoma di Frank vicino al camion e quando si chinò per dare un'occhiata vide il suo occhio di vetro brillare nell'oscurità. Corse a perdifiato lungo i binari, dimenticandosi di respirare e quando arrivò a casa era mezzo svenuto. Big George dormiva, ma Onsel era ancora sveglia e si trovava in cucina. Lui spalancò la porta tenendosi il fianco dolorante e ansimò: Ho bisogno di parlare con papà! Non ti conviene svegliarlo, lo ammonì la madre, a meno che tu non voglia essere frustato. Ma Artis era già nella camera da letto e stava scuotendo freneticamente il padre. Papà, papà, alzati, devi venire con me. Big George si svegliò di soprassalto. Che cosa succede, ragazzo? Non posso dirtelo, la nonna ti vuole subito al caffè. La nonna? Sì, subito, non c'è un minuto da perdere. Big George si stava già infilando i pantaloni. Spero per te che non sia uno scherzo, ragazzo, altrimenti saranno guai per il tuo sedere. Onsel, che aveva sentito tutto dalla porta, andò a prendere il maglione per accompagnarli, ma Big George le disse di restare a casa. Sipsy non sta male, vero? Domandò. No, non sta male, aspetta qui, le intimò il marito. Entrò in salotto, Jasper, mezzo addormentato. Ma che cosa? Niente tesoro, lo tranquillizzò Onsel. Torna pure a letto e non svegliare Willy Boy. Quando furono abbastanza lontani da casa, Artis disse: Papà, la nonna ha ucciso un bianco. Nel buio, Big George non poteva vedere il volto del figlio. Finirai per prenderle se non stai attento a quello che dici. Sipsy era in giardino quando arrivarono al caffè. Big George si chinò e tastò il braccio ormai freddo di Frank, che fuoriusciva dal lenzuolo con cui Sipsy lo aveva coperto. Si rialzò e si posò le mani sui fianchi, continuando a guardare il corpo disteso a terra. Questa volta l'hai fatta grossa, mamma. Ma Big George aveva già preso la sua decisione. Non c'era scampo per un negro che ammazzava un bianco in Alabama, quindi non aveva scelta. raccolse il cadavere di Frank, se lo buttò sulla spalla e disse: «Vieni, ragazzo!» e lo trasportò sul retro del giardino, dove lo depositò sul pavimento di terra del capanno degli attrezzi. «Resta qui finché non sarò tornato», ordinò al figlio, «e non muoverti, devo sbarazzarmi di quel camion». Un'ora più tardi, quando Iggy e Rutter rincasarono, il bambino dormiva placidamente nella sua culla. Iggy accompagnò Sipsy a casa, in macchina, e le spiegò di essere molto preoccupata per mamma Threadgood. Sipsy non le disse che avevano rischiato di perdere il bambino. Artis rimase tutta la notte nella baracca, nervoso ed eccitato, seduto sui talloni ad ondolarsi avanti e indietro. Verso le 4 del mattino non seppe più resistere, aprì il suo coltello a serramanico e nel buio pesto pugnalò il cadavere sotto il lenzuolo. Una, due, tre, 4 volte, poi ancora. Era quasi l'alba quando la porta scricchiolò e Artis per poco non se la fece addosso. Ma era soltanto suo padre. Aveva spinto il camion nel fiume vicino al club della pesca e poi era tornato fin lì a piedi. Erano più di 10 miglia. Quando Big George sollevò il lenzuolo e disse: «Dobbiamo far sparire i suoi vestiti», restarono tutti e due allibiti a guardare. La prima luce penetrava attraverso le fessure del legno. Artis guardò Big George con gli occhi grandi come scodelle. «Papà, quest'uomo bianco non ha la testa!» bisbigliò. Big George sospirò. Già, non c'era più. Sua madre gliel'aveva tagliata e l'aveva sepolta chissà dove. Ma non c'era tempo da perdere. Aiutami a spogliarlo. Era la prima volta che Artis vedeva un uomo bianco nudo. Era tutto bianco e rosa, proprio come i maiali, dopo che li avevano bolliti e avevano perduto il pelo. Big George gli diede il lenzuolo e i vestiti insanguinati e gli disse di andare nel bosco e di seppellirli in una buca profonda, poi di tornare a casa e di non raccontare niente a nessuno, ma proprio a nessuno, e mai. Mentre scavava la buca, Artis non poté fare a meno di sorridere. Aveva un segreto importante che avrebbe dovuto tenere per sé tutta la vita. Un segreto che gli avrebbe dato forza nei momenti di debolezza. Un segreto tra lui e il diavolo. La sola idea lo riempiva di piacere. Mai più avrebbe provato la collera, il dolore e l'umiliazione degli altri negri. Sarebbe per sempre stato diverso, sarebbe per sempre stato al di sopra. Aveva pugnalato un bianco. E quando i bianchi l'avrebbero fatto soffrire, lui avrebbe potuto ridere dentro di sé. Io ho pugnalato uno di voi e voi non lo saprete mai. Alle 7:30 Big George aveva già cominciato a uccidere i maiali e l'acqua bolliva nel pentolone di ferro. Era un po' presto, visto il periodo dell'anno, ma nemmeno troppo. Nel pomeriggio, quando Grady e i due poliziotti della Georgia avevano interrogato suo padre sull'uomo bianco scomparso, Artis per poco non era svenuto nel vedere uno dei due avvicinarsi alla pentola per guardare dentro. Era sicuro che il poliziotto avesse visto il braccio di Frank Bennett andare su e giù in mezzo a quei pezzi di maiale. Ma evidentemente non lo aveva visto, perché 2 giorni dopo il poliziotto più grasso aveva detto a Big George che quel barbecue era il migliore che avesse mai mangiato. Gli aveva domandato quale fosse il suo segreto. Big George aveva sorriso: «Il segreto è tutto nella salsa». Clinica privata, magri per sempre, Montecito, California, 5 dicembre 1986. Evelyn soggiornava alla clinica privata da quasi 2 mesi ormai e aveva già perso 11 chili, ma aveva guadagnato altrove. Aveva trovato il suo gruppo, il gruppo che aveva disperatamente cercato per tutta l'esistenza. Eccoli qua, i divoratori di caramelle. Erano casalinghe, divorziate, insegnanti e bibliotecarie nubili, tutte desiderose di dimagrire e rifarsi una vita. Non aveva immaginato quanto sarebbe stato divertente. Tutto quello che Evelyn Couch e le sue compagne di bilancia avevano in mente era sapere quale nuovo dessert ipocalorico i cuochi avrebbero proposto per cena. Sfogliata di zucca, 55 calorie per porzione, o mousse di frutta, solo 50 calorie. Chissà che quella sera non ci fosse il suo preferito, il budino in forma, 80 calorie per porzione. Evelyn non aveva mai sospettato che l'avvicinarsi dell'ora del massaggio l'avrebbe riempita di felicità e che lei sarebbe stata sempre la prima a presentarsi in piscina per i giochi acquatici. Le era accaduto anche qualcos'altro di inimmaginabile. Era diventata una delle donne più popolari e contese del centro. Quando arrivava una nuova ospite, le veniva chiesto: «Hai già conosciuto quella simpatica signora dell'Alabama? Aspetti di averla sentita parlare. Ha un accento adorabile ed è così divertente». Evelyn non si era mai considerata divertente e non immaginava di avere un accento così fuori dell'ordinario, ma ogni volta che diceva qualcosa, le altre si buttavano per terra dal ridere. Lei era contenta per questa sua nuova immagine e per non perdere neppure un istante di questa insperata celebrità, ogni sera teneva corte davanti al fuoco. Aveva stretto amicizia in particolare con tre casalinghe di Thousand Oaks, una di nome Dorothy e due di nome Stella. Avevano costituito un loro club privato e giurarono di vedersi almeno una volta all'anno per il resto dei loro giorni, ed Evelyn non dubitava che si sarebbero incontrate davvero. Anche quel giorno, dopo lo stretching, infilò la sua nuova tuta da jogging blu elettrico e si fermò alla reception per ritirare la posta. Ed le inviava la corrispondenza al completo, comprese le pubblicità, e di solito non c'era mai nulla di importante. Ma quel giorno Evelyn trovò una lettera con il timbro postale di Whistle Stop, Alabama. L'aprì e si domandò chi mai potesse scriverle da laggiù. Cara signora Couch, sono spiacente di comunicarle che domenica scorsa, verso le 6:30 del mattino, è mancata la signora Threadgood in casa sua, come aveva sempre desiderato. Ho qui diverse cose che Ninni ha voluto lasciare a lei. Mio marito e io saremo felici di portargliele a Birmingham, oppure può passare a prenderle quando più le fa comodo. Mi può telefonare al numero 555-7760. Mi troverà tutto il giorno. Cordiali saluti, Johnny Hartman. All'improvviso Evelyn non si sentì più così in forma ed ebbe voglia di tornare a casa. Whistle Stop, Alabama, 8 aprile 1986. Evelyn aspettò la prima giornata calda di primavera per recarsi dalla signora Hartman. Chissà perché non aveva sopportato l'idea di vedere Whistle Stop per la prima volta in pieno inverno. Suonò il campanello e venne ad aprirle una donna piacente con i capelli castani. «Entri, signora Couch, felice di conoscerla. La signora Threadgood mi ha parlato tanto di lei, è come se fossimo già amiche». Portò Evelyn in una cucina immacolata, dove aveva già preparato due tazze per il caffè e una torta fatta in casa. Mi è spiaciuto tanto doverle scrivere quella lettera, ma immaginavo che le avrebbe fatto piacere essere informata. È stata molto gentile. Non sapevo che avesse lasciato Rose Terrace. Non poteva saperlo. La signora Otis morì una settimana dopo la sua partenza per Montecito. Oh no, mi dispiace. Chissà perché la signora Threadgood non me l'ha scritto. È quello che le ho detto anch'io, ma mi ha risposto che lei era in vacanza e non voleva rattristarla. Era fatta così. Pensava sempre al bene degli altri. Ci trasferimmo nella casa accanto alla sua dopo la morte del marito, quindi la conoscevo da più di 30 anni e mai una volta l'ho sentita lamentarsi e dire che non ha avuto una vita facile. Suo figlio Albert era ritardato, ma ogni giorno lei si alzava, lo radeva, lo lavava e imbrottalcava tutto e poi gli metteva il bustino contro l'ernia. Lo trattava come un bambino piccolo, anche se ormai era un uomo adulto. Non c'è mai stato un figlio più amato di Albert Threadgood. Povera Ninni, che Dio la benedica. Mi manca tanto, e immagino anche a lei. Sì, moltissimo, e mi dispiace di non essere stata qui. Forse avrei potuto fare qualcosa, portarla da un dottore. No, cara, non avrebbe potuto fare proprio nulla. Non era malata. Veniva sempre con noi in chiesa la domenica e di solito la trovavamo già pronta e vestita che ci aspettava sotto il portico. Ma quella domenica mattina, quando è stato il momento di partire, lei non c'era e io mi sono subito preoccupata. Ray, mio marito, è andato a bussare, ma non ha risposto nessuno. Così è entrato e dopo qualche minuto è tornato qui da solo. Dov'è? Gli ho domandato e lui mi ha risposto: è morta. Poi si è seduto sui gradini e abbiamo pianto insieme. Se n'è andata nel sonno, la morte più bella. Credo sapesse che la sua ora era vicina, perché ogni volta che andavo a trovarla mi diceva: Johnny, se dovesse succedermi qualcosa, devi dare a Evelyn queste cose. Le era affezionatissima, parlava sempre di lei ed era sicura che un giorno sarebbe venuta a prenderla con una Cadillac rosa per portarla a fare un giro. Poverina, quando è morta non possedeva più niente a parte qualche ninnolo. A proposito, vado a prenderle le sue cose. La signora Hartman tornò con un quadretto su cui era ritratta una ragazza nuda che si dondolava su un'altalena. Sullo sfondo c'erano delle bolle azzurre. Portò anche una scatola da scarpe e un barattolo di vetro con dentro una specie di ghiaia. Evelyn prese il barattolo. E questo cos'è? La signora Hartman rise. Sono i suoi calcoli. Perché abbia voluto lasciarglieli, questo lo sa solo il cielo. Evelyn aprì la scatola da scarpe. All'interno trovò il certificato di nascita di Albert, il diploma di chiropratico che Cleo aveva ottenuto alla Parnell School di Davenport, Iowa, nel 1927, e una quindicina di programmi funerari. C'era anche una busta piena di fotografie. Una ritraeva un uomo e un bambino vestito da marinaretto seduti su una falce di luna. Un'altra del 1939 mostrava un ragazzino biondo con i libri di scuola sotto il braccio. Dietro c'era scritto Stamp Threadgood a 10 anni. C'era anche un ritratto di famiglia di tutti i Threadgood scattata nel 1919. A Evelyn sembravano vecchi amici. Riconobbe immediatamente Buddy, i suoi occhi luminosi e il sorriso smagliante. Oh, quella doveva essere Sirew e quelle le gemelle. Leona si era messa in posa come una regina e la piccola Iggy teneva in braccio il suo galletto di legno. Alle loro spalle, con un grembiule bianco, c'era Sipsy che guardava con estrema serietà nell'obiettivo. Seguiva la foto di una ragazza in abito bianco, in piedi in quello stesso giardino, con una mano alzata per riparare gli occhi dal sole e un dolce sorriso sulle labbra. Evelyn pensò che fosse una delle creature più graziose da lei mai viste, con quelle lunghe ciglia e quello sguardo tenero, ma non la riconobbe. Domandò alla signora Hartman chi fosse. La signora Hartman inforcò gli occhiali che teneva appesi a una catenella intorno al collo e studiò per un po' la foto, perplessa. Ah, adesso ho capito chi è. È la ragazza che venne a vivere qui con il figlio. Era della Georgia. Si chiamava Ruth, ma non ricordo più il cognome. Mio Dio, pensò Evelyn. Ruth Jamison. La foto doveva essere stata scattata la prima estate che lei aveva trascorso a Whistlestop. La esaminò di nuovo. Nessuno le aveva mai detto che Ruth fosse così bella. Passò alla foto di una donna con i capelli grigi che spuntavano da sotto un berretto da caccia, seduta sulle ginocchia di Babbo Natale con un enorme 1956 scritto sullo sfondo. La signora Hartman prese la foto e rise. Questa è Iggy Threadgood, era la padrona del caffè di Whistlestop. La conosceva? Tutti la conoscevano, era una matta furiosa, così imprevedibile. Guardi, signora Hartman, questa è una foto della signora Threadgood. La fotografia era stata scattata in città, ai grandi magazzini Loveman, una ventina di anni prima. La signora Threadgood aveva già i capelli grigi e sembrava la stessa di quando Evelyn l'aveva vista l'ultima volta. La signora Hartman prese la fotografia per osservarla meglio. Mi ricordo ancora quel vestito. Era blu scuro a puntini bianchi. Credo che si sia vestita così per almeno 30 anni. Mi aveva detto che dopo morta i suoi abiti dovevano essere regalati ai poveri, ma non c'era nulla che valesse la pena di salvare, solo un vecchio cappotto e qualche grembiule da casa. Ho regalato anche quei pochi mobili rimasti, tranne la sedia a dondolo che c'era sotto il portico. Da quella non sono riuscita a separarmi. Lei ci stava sempre seduta sopra, notte e giorno, in attesa di vedere passare i treni. Non ho voluto regalarla a estranei. Ninni ha lasciato la casa a nostra figlia Terry. Evelyn stava continuando a estrarre cose dalla scatola. Guardi, signora Hartman, un vecchio menù del caffè di Whistlestop. Deve risalire almeno agli anni 30. Guardi che prezzi! Carne alla griglia per 10 centesimi e una cena completa per 35. Una fetta di torta costava un nichelino. Incredibile, vero? Al giorno d'oggi un pasto decente costa almeno 5-6 dollari in una caffetteria e il dolce e il dessert sono extra. Evelyn trovò una fotografia di Iggy con un paio di occhiali e un naso finto in piedi in mezzo a 4 individui vestiti in modo assai ridicolo. Sotto, a mano, qualcuno aveva scritto Club dei cetrioli sott'aceto, follie e freddure 1942. C'erano anche un biglietto di auguri pasquali firmato Cleo, le cartoline che Evelyn aveva inviato dalla California, un menù della carrozza ristorante di un treno della Southern Railroad degli anni 50, un rossetto mezzo consumato, una copia mimeografata del Salmo 90 e un braccialetto di plastica dell'ospedale con scritto Virginia Threadgood, sesso femminile, 86 anni. In fondo alla scatola, Evelyn vide una busta indirizzata a lei. Mi ha scritto una lettera, comunicò la signora Hartman. L'aprì e la lesse immediatamente. Cara Evelyn, le ho scritto alcune delle ricette originali di Sipsy. Mi piacevano tanto che ho pensato di lasciargliele, soprattutto quella dei pomodori verdi fritti. Le voglio bene, cara piccola Evelyn. Sia felice, io lo sono. La sua amica, Ninni Threadgood. Poveretta, ha voluto lasciarle anche quelle, mormorò la signora Hartman. Evelyn si sentì triste mentre ripiegava il biglietto e riponeva ogni cosa nella scatola. Mio Dio, pensò, una persona ha vissuto e respirato su questa terra per 86 anni ed ecco che cosa rimane di lei. Solo una scatola da scarpe piena di vecchie carte ingiallite. Domandò alla signora Hartman di spiegarle dove si trovava un tempo il caffè. A un paio di isolati da qui sarò felice di accompagnarla se lo desidera. Lo apprezzerei molto, grazie. Spengo i fagioli e infilo l'arrosto nel forno, poi sarò pronta. Evelyn depositò il quadro e la scatola da scarpe in macchina e intanto, mentre aspettava, andò a sbirciare nel giardino della signora Threadgood. A un certo punto alzò gli occhi e non poté fare a meno di ridere. Tra i rami più alti della betulla, davanti a casa, c'era ancora la scopa che la signora Threadgood aveva lanciato più di un anno prima, contro le ghiandaie, e appollaiati sui fili del telefono i corvi che avevano ascoltato attraverso le zampe le sue telefonate. La casa era proprio come la signora Threadgood l'aveva descritta, con i vasi di gerani e le gardenie rosicchiate dai parassiti in giardino. Quando la signora Hartman uscì, percorsero in macchina i pochi isolati fino al luogo in cui un tempo era stato il caffè, a meno di 10 metri dalle rotaie della ferrovia. Di fianco c'era una casetta di mattoni, anch'essa abbandonata, ma Evelyn riuscì lo stesso a decifrare l'insegna sbiadita, appesa dietro una delle finestre. Salone di bellezza di Opal. Era proprio tutto come se l'era immaginato. La signora Hartman le mostrò il punto in cui papà Threadgood aveva il suo negozio, ora trasformato in un supermercato, con al primo piano una sede del Club degli Alci. Evelyn le domandò se fosse possibile visitare Trutville. Certo, è dall'altra parte dei binari. Quando giunsero nel quartiere nero, Evelyn si sorprese di quanto fosse piccolo, solo poche file di baracche mezzo distrutte. La signora Hartman le indicò una casetta con seggiole di metallo verde sotto il portico e le disse che quella era stata l'abitazione di Big George e Onsel fino a quando non si erano trasferiti a Birmingham, a casa del figlio Jasper. Lasciando il quartiere, passarono davanti al negozio di Osi, adiacente a una baracca di legno cadente che una volta doveva essere stata dipinta di azzurro. Il davanti del negozio era interamente occupato da vecchi cartelli pubblicitari risalenti agli anni 30 che invitavano a bere Buffalo Rock, la bibita allo zenzero invecchiata 1 milione di minuti o più. Evelyn ricordò all'improvviso qualcosa della propria infanzia. Signora Hartman, crede che in quel negozio vendano bibite alla fragola? Certamente. Secondo lei posso entrare? Certo, ci sono moltissimi bianchi che vanno a fare la spesa lì. Evelyn parcheggiò ed entrarono in negozio. La signora Hartman andò dal vecchio in camicia bianca e bretelle e cominciò a gridare: Oh sì, questa è la signora Couch! Era un'amica di Ninny Threadgood! Quando sentì il nome della signora Threadgood, Oh sì, si illuminò, si alzò e corse ad abbracciare Evelyn. Lei, che in vita sua non era mai stata abbracciata da un negro, ne rimase alquanto scioccata. Oh sì, cominciò a parlare a raffica, ma Evelyn non riuscì a capire una sola parola perché lui era completamente sdentato. E la signora Hartman ricominciò a gridare: No, non è sua figlia, è una sua amica di Birmingham. Osi continuava ugualmente a sorriderle. La signora Hartman stava frugando nel frigorifero delle bibite e ne trovò una alla fragola. Eccola servita. Evelyn cercò di pagare, ma Osi continuava a ripeterle qualcosa che lei non riusciva a capire. Dice di mettere subito via quei soldi, signora Couch, vuole offrirle lui la bibita. Evelyn avrebbe preferito pagare, ma ringraziò Osi e lui le seguì fino all'auto, continuando a parlare e a sorridere. Addio! Gridò la signora Hartman. Quindi si rivolse a Evelyn. È sordo come una campana. L'avevo capito. E come mi ha abbracciata! La signora Threadgood era una delle sue clienti più affezionate. La conosceva fin da ragazzo. Ripercorsero la strada che correva lungo i binari e la signora Hartman disse: Se svolta a destra al prossimo incrocio. Le mostrerò la vecchia casa dei Threadgood. Era proprio dietro l'angolo, una casa grande a 2 piani, con il portico che girava tutto intorno. Evelyn l'aveva vista in fotografia. Parcheggiò davanti al cancello e smontarono. Le finestre erano quasi tutte rotte e chiuse con assi di legno, e il legno del portico era imbarcato e marcio. Così preferirono non salire. Sembrava che la casa fosse in procinto di crollare. Si incamminarono verso il retro. Che peccato averla lasciata andare così, commentò Evelyn. Doveva essere bella un tempo. Era la casa più bella di Whistlestop, confermò la signora Hartman. Ma i Threadgood non ci sono più ormai, e così uno di questi giorni la demoliranno. Quando raggiunsero il giardino, retrostante la casa, si sorpresero molto di quello che videro. Il vecchio pergolato era interamente coperto da migliaia di boccioli di rosa, l'unica cosa viva e fresca in quel luogo di abbandono e oblio. Evelyn sbirciò attraverso un vetro rotto e vide un tavolo di metallo. Chissà quanti biscotti erano stati tagliati su quel tavolo quando ancora la casa pulsava di vita, pensò. Quando riaccompagnò a casa la signora Hartmann, la ringraziò caldamente per averle fatto da guida. Oh, è stato un piacere. Sa, da quando i treni hanno smesso di passare, non ci capita più molto spesso di ricevere visite. Mi dispiace che ci siamo conosciute in circostanze tanto tristi, ma è stato bello averla qui e torni ogni volta che lo desidera, mi raccomando. Benché fosse tardi, Evelyn decise di passare ancora una volta davanti alla vecchia casa. Stava scendendo il buio e mentre percorreva la strada i fari illuminarono le finestre in modo tale da far sembrare che ci fosse ancora gente all'interno nelle varie stanze. E all'improvviso le sembrò di aver udito Essie Roux suonare il vecchio pianoforte nel salottino. Ragazze di Buffalo, si va a ballare questa sera! Si va a ballare questa sera! Evelyn fermò l'auto e rimase seduta all'interno, singhiozzando, con il cuore spezzato e chiedendosi perché le persone dovessero invecchiare e morire. Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 25 giugno 1969. È duro dirsi addio. Con grande dolore vi annuncio che questo sarà l'ultimo numero. Da quando ho portato la mia dolce metà nel sud dell'Alabama per una vacanza, si è messo in testa di andarci a vivere. Ci siamo trovati un posto sulla baia e ci trasferiremo entro un paio di settimane. Finalmente il mio congiunto potrà pescare giorno e notte, se lo desidera. Mi rendo conto di viziarlo, ma nonostante il suo caratteraccio, è pur sempre il mio caro vecchio. Non so che cosa dire, quindi sarò breve. Siamo tutti e due nati e cresciuti a Whistle Stop, dove abbiamo avuto una vita splendida e molti amici. Ma quasi tutti ormai sono andati ad abitare altrove. Il posto non è più lo stesso e ora, con tutte queste nuove autostrade, è impossibile capire dove finisca Birmingham e dove cominci Whistle Stop. A ripensarci mi sembra che dopo la chiusura del caffè il cuore della città abbia semplicemente cessato di battere. È strano come un posto da nulla come quello riuscisse a tenere unite tante persone. Se non altro ce ne andremo con tanti ricordi e soprattutto ce ne andremo insieme. Dot Wims. PS. Se qualcuno di voi passasse per Fairhope, Alabama, è pregato di venirci a trovare. Io sarò quella che pulisce il pesce nel giardino sul retro. Cimitero di Whistle Stop, Whistle Stop, Alabama, 19 aprile 1988. La seconda Pasqua dopo la morte della signora Threadgood, Evelyn decise di andare a trovare al cimitero. Comprò uno splendido mazzo di gigli e partì con la sua nuova Cadillac rosa, con appuntata sul petto la spilla da 14 carati a forma di calabrone con gli occhi di smeraldo, un altro premio. Quella mattina aveva avuto un brunch con le colleghe, quindi arrivò a destinazione nel primo pomeriggio. Il cimitero ormai era semideserto, ma pieno di composizioni floreali dagli splendidi colori. Evelyn, dovette percorrerlo in lungo e in largo prima di trovare il lotto della famiglia Threadgood. Per prima vide la tomba di Ruth Jamison, ma decise di seguire un ordine cronologico e così si diresse verso la doppia lapide sormontata dall'angelo. William James Threadgood, Alice Lou Cloud Threadgood, adorati genitori non perduti ma che ci hanno preceduti, dove noi li raggiungeremo. Accanto a loro c'era Buddy Threadgood, un fiore reciso prima del tempo che non appassirà mai nei nostri cuori. Trovò anche le tombe di Edward, Cleo e Mildred, ma non riuscì a trovare quella della sua amica e cominciò a preoccuparsi. Dov'era la signora Threadgood? Finalmente, una fila più in là sulla destra vide Albert Threadgood, il nostro angelo su questa terra, al sicuro finalmente tra le braccia di Gesù. Guardò la tomba accanto a quella di Albert e finalmente lesse Virginia Ninni Threadgood. Tornata a casa. Il ricordo e la dolcezza dell'anziana signora la sopraffecero all'istante. Si rese conto di sentirne fortemente la mancanza. Con le lacrime agli occhi depose i fiori sulla tomba, poi cominciò a strappare le erbacce che erano cresciute intorno alla lapide. Si consolò pensando che almeno una cosa era certa: se c'era un paradiso, la signora Threadgood in quel momento era lì. Si domandò se su questa terra ci sarebbe mai stata un'anima altrettanto pura e ingenua, ma ne dubitava. È buffo, pensò, perché proprio conoscendo la signora Threadgood aveva superato la paura della vecchiaia e della morte, benché la morte non le sembrasse ormai così lontana. Anche quel giorno era come se la signora Threadgood la stesse semplicemente aspettando dietro una porta. Evelyn cominciò a parlarle a bassa voce. Mi deve scusare se non sono venuta prima, signora Threadgood. Non ha idea di quante volte ho pensato a lei e ho desiderato poterle parlare. Mi è dispiaciuto soprattutto non salutarla prima che se ne andasse. Proprio non mi era passato per la testa che avremmo potuto non vederci più. Non ho mai avuto la possibilità di ringraziarla. Se non fosse stato per lei e per le sue parole, non so che fine avrei fatto. Tacque per un istante. Poi continuò. Finalmente ho la Cadillac rosa, signora Threadgood. Pensavo che mi avrebbe resa felice, ma averla non è più così importante per me. Adesso che non c'è più lei da portare a spasso. Ho sognato molte volte di poterla passare a prendere una domenica, magari per andare da Ollie a mangiare un barbecue. Girò intorno alla lapide e continuò a strappare le erbacce. Mi hanno chiesto di lavorare con il gruppo di igiene mentale all'ospedale dell'università e forse accetterò, rise. Tanto vale che lavori per una malattia che ho avuto, ho detto a Ed. Non ci crederà, signora Threadgood, ma sono diventata nonna. 2 volte. Janice ha avuto 2 gemelle. E ricorda la madre di Ed? L'abbiamo trasferita a Meadowlark Manor e si trova molto meglio. Anch'io sono stata contenta perché Rose Terrace senza di lei mi era diventata odiosa. L'ultima volta che ci sono andata, Jeanine mi ha detto che Vesta Adcock è sempre pazza e non si è ancora rassegnata alla partenza del signor Dunaway. Sentono tutti la sua mancanza, Jeanine, gli Hartman. Sono andata da loro a prendere le cose che mi ha lasciato e ogni tanto preparo qualcuna delle sue ricette. Sa che ho perso 22 chili dall'ultima volta che ci siamo viste. Adesso devo perderne altri 5. Che cos'altro c'è? Il suo amico Osi è morto il mese scorso, ma forse lei lo sapeva già. Oh, stavo per dimenticare. Ricorda quella fotografia che le avevano scattato, quella dove indossa il vestito blu a puntini bianchi? L'ho fatta incorniciare, la tengo in salotto, e quando una delle mie clienti l'ha vista, ha detto: Evelyn, sei il ritratto vivente di tua madre. Non è incredibile, signora Threadgood? Evelyn raccontò alla sua amica tutti gli avvenimenti più importanti di quell'ultimo anno e non se ne andò finché non fu sicura in cuor suo di avere convinto la signora Threadgood che era veramente cambiata. Si sentiva felice quando risalì in macchina, ma nel passare accanto alla tomba di Ruth si fermò. Aveva visto qualcosa che di sicuro non c'era quando era passata la prima volta. Sulla pietra tombale c'era un barattolo di vetro pieno di boccioli di rosa tagliati di fresco. E accanto al barattolo c'era una busta su cui qualcuno aveva scarabocchiato con una calligrafia angolosa per Ruth Jamison. Sorpresa, Evelyn raccolse la busta. All'interno c'era un vecchio biglietto pasquale con la fotografia di una ragazzina che reggeva un cesto carico di uova multicolori. Aprì il biglietto. Per quella persona speciale che sei tu, dolce e cara, come non si potrebbe di più, la più bella, la più vera, la più amata e sincera. Tutto questo sei tu e qualcosa di più. Il biglietto era firmato: Non ti dimenticherò mai, la tua amica incantatrice d'api. Evelyn, con il biglietto ancora in mano, si guardò attorno nel cimitero, ma non vide nessuno. Notizie di Birmingham, 17 marzo 1988. Anziana donna scomparsa. La signora Vesta Adcock, 83 anni, residente nella casa di riposo Rose Terrace, è uscita ieri per una passeggiata dicendo di avere bisogno di una boccata d'aria fresca e non ha più fatto ritorno. Quando è stata vista l'ultima volta, indossava una vestaglia di ciniglia rosa con il collo e le maniche bordate di pelliccia e pantofole di pelo blu elettrico. Dalla sua stanza sono scomparsi anche un berretto lavorato a mano e una borsa di perline nere. Un conducente d'autobus ricorda di aver visto qualcuno che risponde a questa descrizione salire sul suo automezzo nei pressi della casa di riposo nel tardo pomeriggio di ieri. Se avete visto questa donna, per favore telefonate alla direttrice della casa di riposo a Rose Terrace. Il figlio della donna, Earl Adcock Jr. di New Orleans, dice che la madre potrebbe essersi smarrita. Notizie di Birmingham, 20 marzo 1988. L'anziana scomparsa ritrovata in un nido d'amore. La signora Vesta Adcock, la donna di 83 anni sparita 4 giorni fa dalla casa di riposo Rose Terrace, è stata trovata alloggiata al Bama Motel di East Lake. Il suo compagno Walter Dunaway, 80 anni di Birmingham, ha avuto una lieve crisi cardiaca e questa mattina è stato ricoverato nell'ospedale universitario in osservazione. La signora Adcock ha chiesto di essere riaccompagnata alla casa di riposo ed era piuttosto depressa perché, come ha detto lei stessa, Walter non è l'uomo che credevo. Il signor Dunaway è ora in buone condizioni di salute. Autostrada 90, Marianna, Florida, 22 maggio 1988. Bill e Marion Neal e la loro figlia di 8 anni, Patsy, Viaggiavano da un giorno intero quando passarono davanti a una bancarella con le scritte uova di giornata, miele, frutta e verdura, pesce gatto fresco, bibite ghiacciate. Poiché avevano sete, Bill fece inversione e tornò indietro. Quando scesero non videro nessuno, ma da sotto una quercia, situata poco lontano, si alzò un vecchio che, lasciando momentaneamente solo il suo compagno, si incamminò verso la bancarella. Salve, gente, che cosa posso fare per voi? Quando udì la voce, Marion si rese conto che non si trattava di un uomo, ma di una donna, con i capelli bianchi come la neve e la pelle indurita dal sole. Tre bibite, per favore. Patsy stava osservando i barattoli di miele sullo scaffale. Mentre la vecchia apriva le tre bottigliette, Patsy indicò uno dei barattoli e disse: Che cosa c'è lì dentro? Un favo tolto dall'alveare? Non ne avevi mai visto uno, bambina? Patsy era affascinata. No, signora. Di dove siete voi altri? Di Birmingham, rispose Marion. Abitavo in una cittadina poco lontano, probabilmente non ne avete mai sentito parlare, si chiamava Whistlestop. Dove c'era lo scalo ferroviario? Domandò Bill. C'era un posto famoso per il barbecue un tempo, se ben ricordo. La vecchia sorrise, ricorda bene. Bill indicò una delle scritte. Non sapevo che si pescassero pesci gatto da queste parti. Se ne pescano e come, ma oggi non ne ho. La vecchia guardò la bambina bionda per vedere se stava ascoltando. La settimana scorsa ne ho pescato uno, ma era così grosso che non siamo riusciti a tirarlo a riva. Davvero? Si meravigliò Patsy. Gli occhi azzurri della donna scintillarono. Altro che lo abbiamo fotografato perché era una rarità e la fotografia da sola pesava 20 kg. La ragazzina inclinò la testa su un lato, cercando di immaginare quella poderosa fotografia. È sicura? Sicuro che sono sicura, ma se non mi credi. Voltò loro le spalle e chiamò il vecchio sotto la quercia. Ehi, Julian! Vai in casa e prendimi la fotografia di quel pesce gatto che abbiamo pescato la scorsa settimana. Non posso, gridò stancamente il vecchio di rimando. È troppo pesante per me, non vorrei che mi venisse mal di schiena. Visto, ve l'avevo detto. Bill rise e Marion pagò le bibite. Stavano per ripartire quando Patsy si aggrappò al vestito della madre. Mamma, possiamo comprare un barattolo di miele? Tesoro, ne abbiamo da buttar via a casa. Ma non abbiamo neppure un favo, possiamo? Marion sospirò e si arrese. Quanto viene il miele? Il miele? Vediamo. La vecchia cominciò a contare sulle dita, poi disse: Non ci crederete, ma siete stati fortunati perché oggi il miele è gratis. Patsy spalancò gli occhi. Davvero? Proprio così. Non posso accettare, obiettò Marion. Lasci che le dia almeno qualcosa. La vecchia scosse la testa. No, no, è gratis. Ve lo siete vinto, gente. Non potevate saperlo, ma la vostra bambina è la mia milionesima cliente del mese. Io? Proprio tu, la milionesima. Marion sorrise alla vecchia. Se proprio insiste, come si dice, Patsy? Grazie. Di niente. E senti, Patsy, se ti capitasse di tornare da queste parti, vienimi a trovare, mi raccomando. Verrò, signora. Prima di ripartire, Bill suonò il clacson e la bambina salutò con la mano. La vecchia si portò sul lato della carreggiata e continuò a salutare finché l'auto non fu sparita. Ricetta dei pomodori verdi fritti con salsa al latte. 3 cucchiai di grasso di pancetta, farina, 4 pomodori verdi affettati, latte, uova sbattute, sale, pan grattato e pepe. Scaldate il grasso in una padella per friggere. Bagnate i pomodori nell'uovo sbattuto, quindi passateli nel pan grattato. Friggeteli fino a quando non saranno coloriti da entrambi i lati e sistemateli su un piatto. Per ciascun cucchiaio di grasso rimasto nella padella, aggiungetene uno di farina e mescolate bene. Quindi versate, sempre mescolando, una tazza di latte tiepido e lasciate cuocere finché la salsa non si addenserà, senza mai smettere di mescolare. Aggiungete sale e pepe a piacere. Versate sui pomodori e servite bollente. Il meglio che c'è. Fine.